in primo piano. In primo piano questa mattina c'è lo spread. Spread a quota 283, rally in borsa. Questo è il titolo del Sole 24 Ore. Mercati euforici dopo l'intesa che scongiura il fiscal cliff. Abbiamo dedicato di fatto le prime ore in diretta del 2013 proprio alla questione americana, alle trattative, poi al voto. Ecco dunque l'esito. Nella prima seduta dell'anno, dunque ieri, tutte le borse mondiali chiudono in forte rialzo. La relazione allo scampato pericolo del fiscal cliff, il baratro fiscale americano, dopo che la Camera ha dato il via libera in extremis al compromesso sul budget. Moody's avverte però rating degli Stati Uniti a rischio senza tagli al deficit. E proprio in questa chiave di lettura è il fondo a firma di Luigi Zingales, il titolo d'altra parte esplicito, La montagna del debito resta intatta. Winston Churchill, scrive Zingales, amava dire che si può essere sicuri che gli americani facciano sempre la cosa giusta, ma solo dopo aver sperimentato ogni possibile alternativa. L'accordo fiscale per evitare il famigerato fiscal cliff, raggiunto ieri al Congresso degli Stati Uniti, è stato sicuramente conseguito dopo aver esplorato ogni possibile alternativa. Ma è la cosa giusta, si chiede l'economista. Se l'obiettivo era di evitare che la debole ripresa americana si arrestasse subito, sì. Se invece era quello di risolvere i problemi strutturali della finanza pubblica, purtroppo la risposta è no. A dispetto del nome, il precipizio fiscale evitato non era il rischio di insolvenza per il governo americano, ma un forte aumento delle imposte, accompagnato da forti tagli di spese. In Europa lo chiameremmo fiscal compact. Era il risultato della fine dei tagli temporanei alle imposte introdotti da Bush nel 2001 e rinnovati da Obama nel 2010 e di tagli automatici delle spese concordate dai repubblicani nell'estate del 2011 in cambio di un innalzamento del tetto sul debito. Il precipizio in cui l'America sarebbe caduta altro non era che la recessione che si accompagna ad ogni stretta fiscale, visto che sia i repubblicani che i democratici volevano evitare questo rischio. Ma allora perché tanto dramma? Perché gli Stati Uniti non devono solo ripianare il loro deficit, ma anche prepararsi a fronteggiare il problema strutturale che affligge tutte le democrazie occidentali, l'insostenibilità fiscale dell'attuale modello di welfare. Finora questo sistema era stato finanziato trasferendo una parte rilevante del costo sulle generazioni future. Questo, Luigi Zingales, che direi in questo fondo, come dire, affronta, inquadra, ecco, quello che poi è la riflessione di lungo termine, quella che riguarda le nostre società e naturalmente su questi aspetti i punti di vista sono, devono essere molti diversi, ma in poche righe in sostanza ci ricorda A, che la montagna del debito americano è intatta, B, che la montagna è stata costruita per una scelta condivisa, più o meno consapevole naturalmente da parte dell'opinione pubblica, ma di fatto è quella che è la scelta anche di un modello sociale. Ecco qua dunque, spread a quota 283, rally in borsa per il Sole 24 Ore di questa mattina. Vediamo allora su questo tema gli altri titoli. Obama fa volare le borse, l'euforia dopo l'intesa per la stampa, segnali di fiducia dai mercati e naturalmente ben presente in questo titolo la parte così italiana del tema, quindi spread italiano a 283 sotto la soglia auspicata dal Premier. Il merito spiega in un'intervista che appare invece nelle pagine della stampa, nel primo piano della stampa di questa mattina, secondo Daniel Gross è una voce che dovreste, come dire, aver imparato a conoscere anche attraverso Radio 24, un economista, dunque, dicevo, direttore del think tank europeo, il CEPS di Bruxelles. Il merito è degli italiani, dice Gross, e si riferisce proprio ai cittadini italiani. Infatti, spiega, sono le famiglie italiane che hanno ricomprato l'Italia. Intende dire che hanno ricominciato a comprare i titoli, chiede Tonia Mastroboni che lo intervista. Esattamente, se gli stranieri prima erano fuggiti ed avevano venduto i vostri bond, adesso sono tornati. Tornata dunque la fiducia nell'Italia? Sì, gli stranieri ora vedono che è un paese solido, che è un mercato importante per il debito pubblico. Insomma, il ragionamento degli investitori è che se vogliono puntare sull'eurozona fanno molta fatica ad evitare il mercato italiano. E inoltre i rendimenti sui vostri bond sono alti. Ecco, naturalmente quando si parla di spread, come dire, non si può non porre la domanda sul legame con Monti, con il governo Monti, quasi due termini associati proprio nel lessico contemporaneo e sicuramente nella storia breve del 2012. Ecco, e dunque non solo, insomma, di fatto gli italiani sì, e la politica quale ruolo? Ecco, di recente Monti ha sostenuto che bisogna riordinare per esempio la sanità. E gli chiede la collega giornalista a Daniel Gross, non pensa che si debba incidere prima altrove? Gross dice: la sanità è un esempio eccellente, si può riformare e si può benissimo tagliare senza colpire i ceti più deboli, ad esempio facendo pagare di più i redditi più alti. Come dire, echi di pensiero americano e di Obama delle ultime ore. Ma i tagli alla spesa pubblica richiedono in generale un'amministrazione pubblica che sappia farlo. È facile dire eliminiamo gli sprechi senza verificare che ci siano i meccanismi che lo consentano. Ancora, uno spread basso rischia di indebolire la spinta riformista. Lo sapremo tra due mesi. Se l'agenda Monti, dice Gross, raccoglierà molti consensi, questo timore si rivelerà infondato. Lo spread rimarrà basso. Se vinceranno i partiti populisti, allora sarà diverso. Infine, non solo su Monti, ma anche su Bersani, i giudizi in Europa sono divisi. Lei cosa ne pensa? Dice: io darei meno peso alle persone più ai programmi. A parte il fatto che Bersani ha proposto alcune liberalizzazioni importanti quando era ministro, la domanda vera da farsi è se l'Italia è diventata un paese aperto alle riforme e ai cambiamenti. Infine, non mi pare che lui e Monti siano poi così distanti. Questa è una riflessione dunque sullo spread, il dato del numero 283, quindi la discesa da oltre una soglia che oggi all'inizio del 2013 viene considerata e percepito come un successo, in altri tempi sarebbe stato un incubo, ma questo appunto è l'effetto degli indici sostanzialmente, per cui la forza vettoriale, la direzione dell'andamento è prioritaria in certe fasi rispetto al valore assoluto. Daniel Gross dunque: questo risultato è merito degli italiani, un punto direi da tenere a mente. Segnali di fiducia dei mercati e anche le borse che brindano all'accordo USA, così su Repubblica. Bene, ci sono anche altri temi. Adesso magari facciamo un'occhiata velocissima ad altri titoli che ci portano alla politica e all'attualità internazionale. Su quest'ultimo fronte l'Avvenire apre a tutta pagina sulla Siria, la strage infinita in Siria. Dati shock delle Nazioni Unite, sono 60.000 morti, bilancio ufficiale di 20 mesi di guerra civile. Ancora colpite dal regime le file per il pane e la benzina, intanto rapiti due giornalisti stranieri. Questo per il quotidiano dei Vescovi, che di fatto sceglie in linea sostanzialmente solitaria un'apertura sui temi della politica internazionale. Altri invece, molto spazio oggi trovate sui giornali sulla campagna, sulla offensiva mediatica dei leader di Monti, di Berlusconi, in primo ruolo, di quella che il Fatto Quotidiano stamattina definisce l'impar condicio. Monti e il Caimano dilagano in TV. Oggi il prof ancora in Rai, il premier costretto a rimuovere dal sito di Palazzo Chigi il documento che esalta i successi del governo, quindi ci riporta in pieno nella campagna elettorale. Ma anche all'interno invece delle formazioni, della costruzione delle liste, il titolo d'apertura E questo Casson dice: buttiamo fuori gli impresentabili dal PD. Il senatore ex PM della commissione etica del partito chiede l'esclusione di alcuni eletti alle primarie. Ci torneremo ancora sulla politica. Invece il giornale titola: Casini affonda Monti, Super Mario sbaglia i calcoli. Secondo Vittorio Feltri, che leggiamo qui sulla prima del giornale, Mario Monti, salito ufficialmente in politica, non ha eccitato gli elettori. I sondaggi più aggiornati lo danno al 12%. Occhio però, il dato comprende consensi accreditati all'UDC, a FLIA e Montezemoliani. L'apporto dell'ex premier alla modesta performance dei centristi è dunque valutabile intorno al 5%. Una miseria. Così le prime righe del fondo a firma di Vittorio Feltri questa mattina sul giornale. Per completare la prima pagina del quotidiano milanese, un ritorno su questa, appunto, per la testata, è il volto di Angela Merkel. La cancelliera Merkel si aumenta lo stipendio con i nostri soldi. Insomma, i ferri corti tra il giornale e la leadership tedesca non permane anche con l'anno nuovo. Dunque, naturalmente, la politica, la campagna elettorale, il posizionamento, la definizione delle liste, il termine, uno dei, diciamo, delle parole chiave di questa campagna già profila la definizione del ruolo di chi è il conservatore. Ecco, ieri Monti ha definito conservatori Vendola e Fassino. Gli effetti di questa affermazione oggi si traducono sulla prima pagina dell'Unità. Monti alla radio promette tagli fiscali e non dice come. Attacchi a Fassina e Vendola. Il titolo più grande è: meno tasse, ma solo a parole. Infatti il premier a radio anch'io dice che ridurrà la pressione fiscale, ma dimentica gli aumenti del 2012 e la TARES, la nuova tassa sui rifiuti, lasciata in eredità al prossimo governo. Attacco a Vendola e a Fassino: sono conservatori. Sciolto intanto il nodo al Senato con Monti, il nodo del logo al Senato con Monti per l'Italia, resta la questione delle liste alle Camere. Ecco quanto naturalmente immediata dalle stesse pagine la risposta del responsabile economico PD Stefano Fassina, che dice: sarebbe interessante capire chi sono i lavoratori iperprotetti. Gli ipergarantiti sono altri, dice appunto Fassina, cioè quel 10% di italiani che ha nelle mani il 50% della ricchezza. Si aspettava un attacco da parte di Monti? Veramente mi aspettavo altro, dice. Pensavo cioè che dopo il confronto della primavera scorsa sul mercato del lavoro Monti recuperasse un deficit di conoscenza delle condizioni reali dei lavoratori italiani. Invece vedo che insiste sulla svalutazione del lavoro come mezzo per recuperare competitività. Propone, in linea coi conservatori, un europeismo mercantilista che, oltre a soffocare l'economia reale, fa aumentare ovunque il debito pubblico in una spirale deflattiva che alimenta i populismi. Insomma, di nuovo il termine conservatore che viene scagliato da una parte all'altra. Il nuovo è stato presente fin dall'antivigilia della campagna elettorale. Se c'è sicuramente una cosa che andrà registrata ed è un fatto appunto politico, è quella delle primarie del PD, del grande dibattito intorno appunto al ruolo della trasformazione interna dei partiti, e questa è un'altra declinazione dello stesso tema. Quindi Monti definisce conservatori Vendola e Fassina. Fassina risponde: il conservatore sostanzialmente sei tu. Ma a proposito di conservatori e di vecchio e nuovo, ecco, sullo sfondo poi c'è un interrogativo, che è quello se da un lato nella retorica della politica, e non solo, si fa presto a dire che il nuovo è meglio, che il nuovo è bello, eccetera eccetera, bisogna anche sempre fare i conti con una trasformazione progressiva della società che invece viene descritta dai numeri. Premesso che non sono affatto dell'idea che i giovani siano riformisti e gli anziani progressisti per definizione, c'è però un fatto che oggi ci viene raccontato anche in un'ampia pagina del Corriere della Sera, che riguarda i paesi d'Europa e la cosiddetta conquista degli over 65. Allora, il dato è questo: entro il 2050 nell'Unione Europea il numero dei pensionati crescerà del 70%, e quello che sta emergendo è che, esattamente come alcuni paesi dell'Unione, non solo, in passato si sono attrezzati per attirare le attività di impresa, pensiamo all'Irlanda, di cui parleremo più tardi, che grazie a una politica, a una specifica politica fiscale, ha attirato i grandi colossi dell'industria immateriale, mi riferisco ai vari Google e Microsoft e ovviamente Apple, almeno, che hanno fatto dell'Irlanda la loro sede europea. Ecco, c'è anche una politica sulle persone, sui pensionati, i paesi alla conquista degli over 65, dalla Grecia alla Spagna, ecco chi fa la corte ai redditi sicuri. La Grecia sta lavorando a un progetto di legge per attrarre i pensionati del ricco Nord Europa. Come? Offrendo una tassazione agevolata. Innanzitutto, dunque, le imposte colpirebbero solo il reddito guadagnato nel paese e non quello proveniente dall'estero, cioè praticamente, se parliamo di un pensionato medio e che dal nord ipotizza un trasferimento in Grecia, stiamo parlando del suo reddito, quindi un reddito, quello da pensione, non sottoposto appunto all'imposta. Atene non sta inventando nulla, scrive oggi Francesca Basso in questa pagina del Corriere. Politiche simili con fisco agevolato sono già state adottate da altri paesi. In Svizzera, per esempio, vige la tassazione forfettaria della spesa. Non si colpisce il reddito prodotto, ma il dispendio, la spesa presunta partendo da quanto uno paga di affitto. Le offerte pensate e dedicate agli over 60, insomma, ormai non stupiscono più, dagli sconti delle crociere per i senior, termine anziani naturalmente è bandito, ai prodotti per la cura della persona. I conti sono presto fatti: entro il 2050 nell'Unione Europea, che ha battezzato il 2012 come anno dell'invecchiamento attivo, il numero delle persone oltre i 65 anni d'età crescerà al 70%, quello di chi ne avrà più di 80 anni salirà del 170%, ovviamente è un numero relativo alla quota, alla fascia di età. Gli effetti dunque sulla società saranno molteplici, ma a voler guardare solo un aspetto è evidente che i pensionati rappresentano un mercato interessante, in espansione e soprattutto non ciclico. Ecco, Filippo Reggi sorride dietro allo schermo della regia, ma questo è un fatto. La demografia, appunto, a differenza dei pareri della campagna elettorale, ha dei trend più stabili, e questo articolo è molto interessante per il racconto di una trasformazione sociale che ovviamente è in corso da anni, ma che riguarda fortemente l'Europa, ne condiziona le politiche, e al di là delle parole, appunto, delle tante parole che sentiamo in queste giornate e che sentiremo a valanga nelle giornate di campagna elettorale. Ecco qua, allora ritorniamo ai nostri quotidiani, alle nostre prime pagine per altri temi, almeno due da segnalare. Dal Messaggero: i Marò tornano in India, in arrivo la sentenza. Ecco, la partenza è imminente, la parola passa dunque alla Corte Suprema. I familiari dicono: siamo sicuri che la vicenda finirà bene. Massimiliano Latorre e Salvatore Girone ripartiranno per l'India probabilmente oggi stesso. La licenza per le festività natalizie concessa il 20 dicembre dall'Alta Corte del Kerala è terminata. I due Marò faranno ritorno a Kochi, dove si trovano in stato di libertà vigilata dal 2 giugno scorso. Per memoria, diciamo, a beneficio della nostra memoria che di tante vicende è bombardata, vi ricordo che questa storia comincia il 15 febbraio scorso, quindi tra poco sarà un anno, proprio la settimana prima del voto peraltro, davanti alla costa del Kerala, appunto, nell'India meridionale. una sera quando Salvatore Girone, Massimiliano Latorre, assieme ad altri quattro marò, si trovano a bordo della petroliera italiana Enrica Lexi, in servizio di antipirateria, loro, i marò. Poco prima del tramonto, questa è la versione di Latorre Girone, viene avvistato in avvicinamento un'imbarcazione che si tema possa essere di pirati. Nonostante gli avvisi lanciati dalla Lexi, l'imbarcazione non si ferma. Girone e Latorre affermano di avere sparato colpi in aria. Dopo alcune ore, dal porto di Kochi giunge la notizia: morti due pescatori indiani a bordo di un peschereccio. Il presunto incidente avviene in acque internazionali, ma stupidamente, scrive Roberto Romagnoli oggi sul Messaggero, stupidamente o per calcolo commerciale, la Lexi, su invito dell'autorità portuale, torna a Kochi. Quattro giorni dopo, Latorre e Girone vengono prelevati dalla polizia indiana. Licenza finita dunque, i marò tornano in India, ora la decisione della Corte Suprema. Questa è un'altra vicenda che ovviamente continueremo a seguire, nella speranza che possa esserci una soluzione che possibilmente coinvolga una realtà, appunto un esito positivo per i nostri connazionali, ma anche il chiarimento su quello che è accaduto, perché non dimentichiamolo, ci sono due pescatori indiani uccisi e sarebbe bene capire come. Ancora, voltiamo pagina e ritorniamo al Sole 24 Ore. Se c'è una notizia ricorrente oggi è quella che riguarda il mercato dell'auto. Sul Sole il concetto, la crisi di questo settore viene raccolto in un titolo che recita: le vendite auto tornano agli anni 70. La quota di acquisti delle famiglie al minimo storico, Fiat perde 100.000 unità ma aumenta la sua quota al 29,6%. Nel 2012 le immatricolazioni sono calate del 19,9% a 1,4 milioni, il livello appunto del 1979. Sono molte le implicazioni, le conseguenze, le ricadute di questa notizia, di questo andamento, che ovviamente anche in questo caso non nasce certo oggi. Una di quelle che è più opportuno segnalare, raccontato da Filomena Greco nel taglio centrale di questa pagina del Sole, è Cassino e Mirafiori i più a rischio. Entro gennaio infatti la decisione per avviare la produzione nei due stabilimenti del SUV Alfa e della Giulia. Il miliardo di investimenti, scrive Filomena Greco, il miliardo di investimenti annunciato da Sergio Marchione due settimane fa per lo stabilimento di Melfi non ha rassicurato i sindacati, soprattutto quelli torinesi. Pomigliano, Grugliasco, Melfi hanno un riferimento alla casella investimenti, è una missione produttiva ufficiale. Mirafiori ancora no, come anche Cassino. Poi c'è il polo abruzzese, raccontato appena sotto da Clara Attene. Il polo abruzzese che sfida la crisi è quello dei veicoli commerciali. Infatti ogni tre veicoli, leggiamo, prodotti in Italia, uno è un mezzo commerciale, e il cuore di questa produzione è il distretto dell'automotive del Val di Sangro in Abruzzo. Ecco dunque, da una parte le fabbriche, la realtà dell'occupazione, e Cassino e Mirafiori dunque su tutto, ma anche dei poli molto forti, magari meno noti e meno percepiti come tali, ma estremamente importanti e produttivi, come appunto l'abruzzese Val di Sangro. Andrea Malan, per una riflessione appunto su questi numeri, scrive oggi sul Sole, dice: i numeri di fine 2012 confermano la profonda crisi del mercato, non solo in Italia. Nel nostro paese le vendite sono crollate in 5 anni da 2,5 a 1,4 milioni di unità, il dato più basso dal 79. In Francia siamo ai livelli di 15 anni fa, in Spagna di fine anni 80. La crisi in corso in Europa ha carattere strutturale, mentre la produzione a livello mondiale tocca nuovi record. Nel vecchio continente, al calo delle vendite dovuto alla recessione nei paesi del sud Europa, si sommano fattori come la minore attrazione esercitata sui giovani dal prodotto automobile e l'aumento dei costi di gestione delle imposte al costo dei carburanti. Dunque, parlavamo di automobili e concludiamo allora la riflessione firmata da Andrea Malan sul Sole 24 Ore. Abbiamo visto i dati, la complessità, l'impatto, la preoccupazione per quanto riguarda in primo luogo chi appunto lavora nelle fabbriche del settore. Abbiamo anche visto come alcuni poli facciano una sorta di battaglia nella battaglia che è quella dei veicoli commerciali, una produzione così importante per il nostro paese. Malan scrive: le prospettive per l'anno appena iniziato purtroppo non sono incoraggianti, i più ottimisti, e sono rimasti pochi, si arrischiano a prevedere una ripresa per la seconda metà del 2013, ma il bilancio dei 12 mesi sarà quasi sicuramente ancora negativo. In Italia il mercato resterà in sospeso almeno fino a dopo le elezioni. Un esito che permetta la formazione di un governo stabile potrebbe avviare un ritorno della fiducia dei consumatori, elemento essenziale per la ripresa. Ecco, risottolineo un passaggio appena sopra di Malan, quando dice: la crisi da una parte, ma anche la minore attrazione esercitata sui giovani dal prodotto automobile. Insomma, ancora una volta le società cambiano, gli interessi si aggiornano, e veramente non c'è nessuna valutazione di merito, ma c'è anche l'esigenza di riflettere su come alcune crisi industriali non hanno un ritorno, hanno un percorso, e il punto di atterraggio può essere molto distante da quello che è stato lasciato. Appunto, il sistema dell'automobile che ha descritto la crescita del Novecento sicuramente è un mondo che cambia e che, ieri lo abbiamo raccontato anche nella rassegna stampa, comincia a dare dei segnali anche di una nuova automobile, di nuove modalità di trasporto più ecologiche sicuramente, ma anche meno costose, meno impegnative per una società fatta, è vero, da persone in Europa con più anni sulle spalle, ma anche da molti giovani che hanno esigenze e accesso e potere d'acquisto molto diverso. Insomma, una grande trasformazione. Questo, le vendite auto tornano agli anni 70, è sul Sole 24 Ore questa mattina. Vediamo ancora altre notizie, ci porta in questo caso al Secolo XIX, dunque quotidiano di Genova, della Liguria, che ritorna sul caso Calevo, il mistero della ragazza del capo, il sequestro del giovane imprenditore, dell'imprenditore Andrea Calevo Alerici, concluso positivamente, le indagini vanno avanti. C'era anche una donna nel gruppo che la sera del 16 dicembre ha sequestrato l'imprenditore Andrea Calevo Alerici. Un testimone l'avrebbe vista vicino al furgone usato per portare il rapito nella villetta dove è stato liberato la vigilia di Capodanno. Così, dopo l'arresto del capobanda Pierluigi Destri, del nipote e dei manovali albanesi, gli inquirenti stanno indagando sulle loro mogli, fidanzate, amiche. In casa di Destri sono state intanto trovate delle armi. Una vicenda che si allarga a macchia d'olio, quasi che a ipotizzare che nel corso di una riunione familiare, magari di quelle che si fanno per dare un'occhiata ai conti e prepararsi alle spending review interne e familiari, qualcuno ipotizzi: ma chissà, perché non un rapimento? Ieri è stata raccontata da varie testate appunto come questa vicenda, se non fosse per l'elemento drammatico e per il rischio che Andrea Calevo ha corso, avrebbe degli aspetti assolutamente grotteschi. Invece, di tutt'altro tenore, una notizia che il Manifesto mette in primo piano, ma che altri giornali riportano in maniera più o meno positiva. Il titolo per il Manifesto è "Mamme di fatto". La notizia è che l'ospedale di Padova riconosce un neonato figlio di una coppia lesbica. Sul braccialetto identificativo il papà è sostituito dall'addizione Partner. È il primo riconoscimento in Italia per via burocratica e non legislativa delle unioni di fatto. L'Italia è un paese che ormai si è abituato nel corso degli anni ad affrontare diciamo decisioni non per via legislativa, ma o per via, appunto, le vie spesso sono i tribunali o le pubbliche amministrazioni. Questo è un altro caso. Per i medici, infatti, i medici dell'ospedale di Padova, ormai non si può più ragionare in maniera tradizionale. La storia è appunto la clinica ostetrica di Padova prende atto della realtà, dispone il riconoscimento delle unioni di fatto, un neonato due mamme, il diritto al braccialetto. La clinica ostetrica ha semplicemente preso atto e adeguato le procedure. Da un paio di mesi ai neonati continuano ad essere applicati i braccialetti identificativi gemelli della mamma, ma non c'è più il bracciale del papà, perché di fronte ad una coppia lesbica il professor Giovanni Battista Nardelli ha disposto il massimo rispetto delle unioni di fatto. A Padova è scattato il braccialetto del partner. La legge 40, si interroga Nicola Massaro nel suo articolo, i pregiudizi sessuali, tutto azzerato, due donne insieme al loro neonato. A Padova non conta come è stato concepito il figlio, né dove o come la coppia lesbica ha adottato la procreazione assistita. Basta che ad ogni neonato corrisponda un partner e adesso si può serenamente assegnare il braccialetto e chiedere e chiudere la cartella. Ecco, questa è una notizia che viene appunto, come vi dicevo, riportata in prima pagina dal Manifesto, ma commentata anche da varie altre testate, in particolare, così giusto per segnalarvelo, una posizione molto diversa sulla stessa notizia dal Giornale, dove Luca Doninelli titola un articolo che se a Capodanno il primo nato ha un papà donna, e per, come dire, per raccontarvele in estrema sintesi, non è affatto d'accordo. Conclude il suo articolo dicendo: io non ce l'ho affatto con le coppie gay, nemmeno con le coppie gay che fanno adottano figli. Penso però che l'uomo che nasce non sia una scatola vuota da riempire coi contenuti che riteniamo più giusti, belli e buoni, e che ci sia in lui un segno che nessuna programmazione può mutare, dal quale dipende tutta la sua felicità. Per questo, così il Giornale dice, oltre alla felicità mi sento di augurare a questi bambini, figli di coppie gay ma anche di coppie normali, che per quanto messo tra virgolette, insomma, stride un po' col ragionamento, una vita piena di imprevisti, quelli che, scrive Doninelli, troppi vorrebbero eliminare. Una citazione nell'articolo che prende spunto dalla stessa vicenda, evoca appunto disegni diabolici, e l'ultimo che tentò di programmare l'umanità si chiamava Adolf Hitler. Insomma, va lontano, ma sicuramente attinge un po' alla pancia di quello che è il dibattito nazionale da tanti anni su questi temi. Eccoci qua, 7:54 minuti 43 secondi. Vorrei almeno, se però lo ritrovo, segnalarvi quello che è il, eccolo qua, una coppia, un doppio reportage. Da una parte vi ho detto la Siria, c'è anche una tripla pagina oggi su Repubblica. Sono 20 mesi di orrore in Siria, 60.000 vittime, una vera e propria guerra interna combattuta intorno a città, cittadine. Il punto, il rapporto delle Nazioni Unite racconta che le perdite si concentrano proprio come fossero diciamo dei fortini tra lealisti e ribelli. A Homs 13.000 morti, nella periferia di Damasco, ad Aleppo, ad Ara, ad Dama, insomma in tutto questo paese ci sono terribili scontri, dove il regime ha cercato per 20 mesi invano di soffocare la rivolta. Nel frattempo lo ha fatto utilizzando tutti i mezzi. Un articolo di Taglio Basso sull'Avvenire racconta l'impiego delle forze aeree. I caccia di Assad nel frattempo rimangono a terra. Prima della guerra civile Damasco aveva oltre 600 veicoli militari, ma nell'anno appena concluso non sarebbe riuscita a mobilitarne più di 30 di tutti questi. Insomma, anche attraverso questi numeri si misura il lento declino, l'agonia del regime siriano.